Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Un'impresa della Roma in piena regola, un'altra serata sconcertante dell'Inter. Non si può dire dunque che siano mancate le sorprese nella prima delle due serate di Champions. E vedremo stasera come se la cavano Juventus e Fiorentina. Di sicuro, se i viola dovessero riuscire a imitare la Roma, un amplen delle quattro italiane, nel senso di qualificarsi tutte e quattro, potrebbe anche tornare ad essere possibile. I commenti, poi avremo un ospite e poi avremo invece le voci di presentazione della serata, giusto per definire un pochino la scaletta. I commenti, cominciando da quello di Mourinho. Possiamo parlare di due cose, possiamo parlare del girone, della qualificazione, o possiamo parlare della partita. Se parliamo del girone, se parliamo della Champions in modo globale, ok, è un punto positivo che lascia la squadra in una situazione molto buona, che se vince la prossima partita a casa finisce anche primo. Si dice tante volte che per fare bene in Champions si deve essere veramente forte, non adesso ma dopo febbraio. Se parliamo della partita di oggi, è una partita dove la Inter ha segnato 7 reti e ha pareggiato 3-3. Ha segnato 3 nella porta dell'avversario, ha segnato 3 nella nostra porta e ha segnato anche Cambiasso, ma il guardalinea non ha visto. Una partita che si deve vincere facile perché siamo molto meglio e loro ovviamente hanno fatto una grandissima partita, hanno lavorato tanto, un pubblico fantastico, una serata bellissima per loro, ma noi per forza abbiamo l'obbligazione quasi di vincere questa partita. Questo era il commento di Mourinho. Siamo già collegati con un tecnico di vaglia che tra poco vi presenterò. Sentiamo ancora il commento finale di Spalletti. Secondo me il lavoro psicologico è stato rimanere uniti, rimanere compatti con lo zoccolo duro del nostro tifo, perché a noi ce l'hanno fatto sapere più volte che loro ci sarebbero stati vicini sempre, come canta sempre poi la curva. In società a me hanno sempre mandato messaggi molto, molto positivi, di conseguenza bisogna andare a lavorare in maniera seria e corretta. Poi è chiaro che qualche confronto con qualche calciatore bisogna averlo, qualche cosa bisogna tentare di fare, ma la differenza in campo lo fa sempre lo spirito poi del gruppo e gente come De Rossi, Perrotta e Brighi, che hanno lavorato tantissimo per la squadra, hanno messo questa disponibilità, danno la base poi per questi risultati. Avete sentito tracce di raucedine profonda nella voce di Spalletti, abbiamo visto anche esultanze più che legittime, più che comprensibili, più che meritate, che in genere non gli sono abituali. Io oggi confesso di non essere al massimo della forma, perché una nottata in bianco davanti alla TV qualche traccia la lascia. Anche se poi, come insegnano i medici sportivi, insomma, l'euforia della vittoria è la miglior medicina, no? Per recuperare la stanchezza. Insomma, chiedo aiuto per una disamina di queste due partite e per una conversazione più in generale sul momento ad un tecnico illustre come Luigi De Canio. Bentornato. Bentrovati. Parliamo innanzitutto dell'attualità e quindi di queste due partite di ieri sera. Che cosa l'ha colpita di più nel bene e da una parte direi e nel male o comunque nel discutibile dall'altra? Nel guardare la partita della Roma principalmente, perché mi sembrava quella più interessante, certo, sotto l'aspetto tecnico-tattico, e anche per le vicissitudini della Roma, devo dire che le parole di Spalletti poi sono significative ed emblematiche. Era importante verificare lo spirito di questa squadra in un momento di così grave difficoltà al cospetto di un avversario di rango, e devo dire che la Roma è uscita veramente bene, può essere un segnale importante per il suo futuro. Questo è vero. Io le sottopongo una mail, ne ho ricevute, insomma, come sempre la Casali del Tempo di Sport insomma, è abbastanza ricca di messaggi, di comunicazioni, di lettere, di ogni genere di cose. Ne ho selezionate due, una per parte. Questa di Giacomo da Treviso, provo a sottoporgliela perché mi è sembrata forse la più interessante che riguardasse la Roma, e parla di Totti. Dice: lo scorso anno rientrò dopo un lungo infortunio alla schiena e senza essersi mai allenato feci due assist che stesero il Real Madrid. Ieri sera è sceso in campo e si è vista subito un'altra Roma, cioè dalla squadra sperduta è tornato un gruppo di combattenti, fiera di maglia e di cuore. Io credo, continua questo ascoltatore Giacomo, che solo Maldini e Del Piero in Italia possano essere accostati a lui. Altri stranieri, fa i nomi di Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, insomma se la prende con quella genia, sono grandissimi campioni ma sono più mercenari del pallone. Io faccio questo paragone, conclude Giacomo: se gli sceicchi si comprano una Miss Italia per sposarla e esibirla in pubblico, noi ci godiamo la nostra bella moglie innamorata e non importa se poi ci si deve ogni tanto accontentare di concorsi di bellezza minori, perché la soddisfazione del risultato è una cosa che arriva dal cuore. L'ho trovata molto singolare come messaggio, ma l'ho trovata anche bella, proprio in un momento in cui la Roma mi pare abbia ritrovato anche questo spirito al di là del risultato e del gioco. Sì, in effetti è proprio così, è molto bella e significativa, e in ogni caso riassume un po' quello che è il significato del disagio della Roma di questo periodo. Pochi giocatori al mondo incidono nella loro squadra così come riesce a fare Totti nella Roma, e anche nella partita dello Stamford Bridge contro il Chelsea che la Roma ha perso, la presenza di Totti è stata importantissima, perché si è vista una bella Roma oltre ad un grande calciatore. Poi hanno perso per un episodio, ma la Roma, anche a detta degli stessi giornali inglesi che di solito sono molto critici, ha ricevuto complimenti, ha giocato meglio del Chelsea, e ieri lo si è visto. Certo che una squadra come la Roma non può fare a meno di un campione così. Certo, è vero che anche all'andata la Roma si era ricoagulata, no? Intorno al suo leader, ed è vero. D'altra parte, De Cagno, se restiamo sulla Roma, io credo che con tutte le vicissitudini che poi ci sono state nel mezzo, la necessità di dover fare mercato commisurato alle risorse e magari alle non risorse, e quindi doversi magari accontentare e fare un po' la politica della lesina, però mi pare giusto ricordare ogni tanto che il capolavoro che si inventò Spalletti 3 anni fa, e cioè quello di inventarsi un gioco sulla base della non presenza di attaccanti di ruolo in squadra, tutto questo non poteva prescindere da un solo giocatore che era Totti. Tutto il resto poi si poteva discutere, ma mi pare che lì fosse la cartina di tornasole, no? È proprio così. Vede, io ricordo perfettamente questo momento, perché la Roma toccò il punto più basso della gestione Spalletti all'inizio, proprio quando incontrò il mio Siena e uscì sconfitto al 92esimo, quando noi ci inventammo un contropiede con Colonnese e riuscimmo a vincere 3-2, insomma, una partita rocambolesca. E in quel momento Spalletti perse gli attaccanti Montella e Nondà, e non andò in società a lamentarsi della mancanza di un attaccante centrale, un attaccante di peso, come magari di solito si è fare. Lui è stato zitto, ha lavorato con i suoi giocatori e si è inventato ha avuto questa stupenda intuizione che ha portato la Roma ai risultati che si è visto, sia da un punto di vista numerico che sul piano del gioco. È chiaro che nel momento in cui nel fare mercato non riescono a sostituire quegli esterni di centrocampo tanto importanti in un sistema di gioco del genere, non riescono ad avere Totti nella migliore condizione, qualche altro giocatore base non al meglio della condizione, è normale, non ci sono tanti aspetti psicologici intorno ai quali fare discorsi. La realtà è semplicemente questa: lui ha bisogno di tempo per ritrovare tutte queste cose. Certo, tra i tanti messaggi che stanno arrivando come ogni giorno ce n'è uno molto bello che arriva proprio dalla nottata americana. Un esempio che anche noi modestamente nel calcio dovremmo seguire, scrive Andrea Termine da Milano, è che l'avversario di Obama, cioè McCain, ha riconosciuto immediatamente e con grandi meriti all'avversario della sconfitta. Da noi dopo un mese si parla ancora di un rigore non dato. Lo so che il parallelo è parte dall'Empire Pireo e arrivare alle cantine, però è anche vero che questo è un principio che, insomma, che bisognerebbe provare a mutuare, no? visto che da stanotte forse il mondo un po', e speriamo davvero in meglio, è cambiato. Adesso le leggo un'altra mail che magari le creerà, chiedendole poi di commentarle un po' più di, non dico difficoltà, ma insomma. È firmata Roberto Bosoni e scrive: Mourinho mi lascia sempre più perplesso. Ibra fortissimo gioca sempre e prima o poi calerà. Cruz gioca poco. Gli strapagati Quaresma e Mancini sono non più di quello che mi aspettavo. Il triplo cambio al 57esimo di ieri sera non l'ho capito. Ho la sensazione di un allenatore che voglia essere sempre sotto i riflettori, forse più adatto a una squadra mediocre da far giocare bene che a una squadra forte da lasciare semplicemente giocare e da gestire. Allora, a me sembra un po' eccessivo, un po' tanto tranchant, però è indubbio che più passa il tempo più si pensava che qualche perplessità su questa Inter fosse destinata a svaporare. Sta forse accadendo il contrario invece. È vero che questa è una questa è già una un po' domanda. Più un po' più tostarella, ma è questo Roberto Bosoni, non sono io, glielo detto, ce l'ho qua sotto gli occhi. No, dunque, indubbio che fino a questo momento noi non abbiamo visto una grande Inter. Mourinho in effetti poi fa sempre dei discorsi anche compatibili, no? Con quello che è il momento, dicendo le cose si vedono alla fine, eccetera eccetera. Da noi questo si sa, è sempre stato così. Certo è che anche il cambio di ieri ha dato l'idea più di un allenatore arrabbiato che volesse quasi identificare in tre altri calciatori dei responsabili per il risultato, piuttosto che un discorso tecnico-tattico coerente rispetto a quella della gara. Mi sembra che siano sempre più le squadre motivatissime a giocare contro l'Inter. Io invece credo che forse bisognerebbe dare qualcosa di più a questa Inter, che abbia una sua personalità, una sua identità, un suo gioco, perché l'organico è, come tutti noi sappiamo e diciamo, è di grandissimo livello per competere sia in Italia, e quindi fare già il vuoto in Italia, sia anche a livello europeo. D'altronde Mancini credo che abbia pagato per questo, insomma. Certo. Questo è oggettivamente vero. De Cagno, la sua avventura al Queen's Park Rangers, l'ultima in ordine di tempo, è finita con una separazione consensuale nello scorso mese di maggio. Si sono già sistemate tre nuove panchine italiane. Io non credo che, insomma, lei non mi pare il tipo che passa la vita accanto al telefono, a parte che oggi questa è un'espressione desueta, perché oggi i telefoni stanno nelle tasche, e quindi però insomma si sente pronto per ritentare una nuova avventura, oppure appartiene a quel genere di allenatori che preferiscono non subentrare in corsa e prendere in mano un progetto dalle fondamenta? No, vede, io sono subentrato quasi sempre in corsa, rare volte ho avuto la possibilità di partire dall'inizio, e fortunatamente mi è andata sempre bene. Sono sempre riuscito a centrare gli obiettivi richiesti dalle società, per cui sono sempre pronto, però so anche vivere senza calcio, sebbene sia la mia passione più importante. Mi emoziona parlare di calcio e viverlo in campo, però se non c'è posto, se non c'è spazio, se nessuno ha bisogno, sto bene anche senza calcio, insomma, ecco. Torniamo in compagnia di Luigi De Cagno, che è stato in carriera da calciatore, prima che da allenatore, è stato difensore. Anzi, De Cagno, ad arretta le sue biografie, lei era un terzino, cioè nel senso che allora ancora si chiamavano così. Corrisponde a verità? Corrisponde a verità. Quindi, classe 1957, era un'epoca in cui gli esterni si chiamavano ancora terzini. Allora, visto che è stato difensore, ed è una domanda che in questo periodo, insomma, almeno qui ricorre spesso, lei ha fatto esperienze di squadre di seconda fascia vicina alla prima, come poteva essere una certa Udinese ad un certo punto, di squadre invece decisamente di seconda fascia, ha fatto categorie inferiori, è stato in Inghilterra. Perché la cosiddetta fase difensiva oggi è diventata così, non so dire se mediocremente applicata, cioè cos'è che è peggiorato? È peggiorata l'applicazione tattica della fase difensiva oppure è la caratteristica tecnica dei difensori che è in caduta? Le caratteristiche tecniche dei difensori è per colpa nostra, per colpa di noi allenatori, che da quando abbiamo visto il grande Ajax, la scuola olandese, poi abbiamo visto il lavoro di Sacchi, abbiamo cercato anche nei settori giovanili di imitarlo, perdendo molto più tempo intorno agli aspetti tattici collettivi che non perdendo tempo per gli aspetti tattici individuali, certo, che potevano formare poi i vari ruoli e nello specifico quello dei difensori. Questo credo che sia la risposta sintetica, ma anche la più completa che si può dare. Tra poco gli ascoltatori, vi ricordo l'800 24 00 24, mi piacerebbe ricordare con lei che un anno fa, proprio oggi un anno fa, spariva dai nostri radar, spariva niente meno che Nils Liedholm. Lo ricordo volentieri con lei perché al di là del fatto che Liedholm è stato un giocatore di caratura mondiale e lei invece è stato un modesto terzino, lo abbiamo ricordato prima, poco modesto, questo l'ha detto lei. Al di là del fatto che poi Liedholm è stato un allenatore di primissimo livello, e lei ha ancora tempo, insomma, però al momento certamente non ha attinto quelle vette, però lei in panchina aveva e ha la stessa compostezza di Liedholm, e questo mi sembra un buon modo, no? per chiederle di ricordare questo personaggio che viveva di humor, viveva di paradossi, viveva di battute, viveva anche di provocazioni. Ogni tanto, se la mettiamo sul piano dialettico, ma insomma, quando la sua squadra segnava un gol decisivo, accavallava la gamba da destra a sinistra, e quando lo subiva lo accavallava da sinistra verso destra. Un uomo di grandissimo spessore umano, capace di insegnare prima di tutto calcio, perché l'avvento della zona in Italia, o comunque di un ritorno ad una zona non così estremizzata, è stato proprio con lui. Le invenzioni di Bartolomei, difensore centrale, certo, eccetera, certo, portano la sua firma, sì. Il gusto del calcio e soprattutto la capacità di vivere il calcio con sobrietà, con tranquillità, senza mai un accenno polemico, senza mai alzare la voce, senza mai avere delle espressioni negative nei confronti di chiunque, della stampa, dei propri calciatori, degli avversari, eccetera. La persona capace di drammatizzare nella maniera in cui si dovrebbe sempre fare un aspetto della nostra società ludico come il calcio. Io non le avevo chiesto di prepararsi prima, lo dico agli ascoltatori, e quindi mi compiaccio e la ringrazio ancora di più per la felicità di questo ricordo. Grazie Decanio. Grazie a voi, grazie, a risentirci. Alla prossima occasione. Due ascoltatori già collegati, tante voci da ascoltare, una serie di notizie. La prima, la promozione che Platini come presidente dell'UEFA ha dato stamane all'Olimpico, un'ora di sopralluogo. Ieri sera Platini era stato in tribuna per Roma-Chelsea, stamattina informa l'ANSA, è tornato all'Olimpico per concludere questo sopralluogo in vista della finale che si disputerà il 27 maggio del prossimo anno. Platini ha girato in lungo e in largo lo stadio, ha analizzato le migliorie apportate nel corso degli ultimi mesi che sono costate al CONI 15 e fischi milioni di euro. Si è detto entusiasta del lavoro fatto e ha avallato le ultime modifiche da portare a termine. Quando giocavo io, queste cose, ha detto raccontando le migliorie dell'impianto, me le sognavo. Primo ascoltatore di oggi è Annibale, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Bah, Io forse dirò una cosa ovvia dicendo che non penso che Mourinho abbia fatto bene a insistere su Burdisso. Bisogna dire da un certo punto di vista che effettivamente Burdisso ha anche avuto fortuna, nel senso che Cordoba si era fatto male, lui bene o male ogni tanto riesce a fare un gol di testa che gli ridà praticamente la possibilità di stare in squadra, ma io ritengo che con un Cordoba in panchina Burdisso debba stare in panchina lui, insomma. Sì, questo credo che lo sappia anche Mourinho, insomma, credo che non occorra essere così speciali per distinguere tra il valore assoluto di un difensore come Cordoba e quello come Burdisso. Non dimentichi però che, immagino, non lo so, ma che Cordoba è guarito, ma insomma può essere considerato tuttora convalescente sulla via di una condizione completa. Si giocava a Cipro, si giocava sul campo di una squadra che sta andando bene, ma insomma che si chiama Anorthosis. Credo fosse l'occasione giusta per un rincalzo, un'alternativa come Burdisso, così come credo che fosse l'occasione stragiusta per far riposare finalmente Ibrahimovic. Lui evidentemente la pensa in maniera diversa, vedremo a gioco lungo se i fatti gli daranno ragione. Per il momento forse non tanto, però è anche vero che se parliamo di Burdisso è difficile prevedere prima. Pur nella affidabilità non eccelsa del giocatore, è difficile prevedere una serata così disastrosa, credo. Daniel ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Senta, io allora vi faccio sapere, per Spalletti, secondo me ieri è stato il migliore in campo, per modo di dire. Uno, perché ha avuto una chiave tattica, una visione di gioco impressionante, mostrando questo 4-4-1-1 con Vucinic che girava attorno a Totti, che solo lui si poteva inventare questa cosa. E poi il problema della Roma quest'anno, a togliere infortuni, sono stati proprio gli inserimenti dei nuovi acquisti, perché abbiamo visto che ieri la Roma ha giocato con la squadra di l'altro anno e ha fatto lo stesso calcio che ha mostrato l'altro anno. Quindi secondo me Spalletti a vita, secondo me Platea dovrebbe fargli fare un contratto alla Ferguson e speriamo che faccia le stesse gesta che ha fatto il grande Lidom a Roma. La ringrazio e buona continuazione. Grazie a lei, Daniel. Per fare un minimo di controcanto, anche se io sono un grande ammiratore di Spalletti, diciamo che ci ha messo un po' a varare questa formula, no? Perché secondo me ci ha messo due settimane meno di ieri, nel senso che questa era già la formula di Londra. Poi è ovvio che a Londra la partita tatticamente era diversa, il Chelsea quella partita la voleva vincere e non limitare eventualmente i danni come ieri, anche se nella prima mezz'ora il Chelsea è partito forte anche ieri sera. Però già là si era visto come una Roma che cronologicamente mi pare di ricordare bene, che quattro giorni prima era stata presa a pallate dall'Inter regalando spazi incredibili all'attacco dell'Inter, e invece era andata la sua a difendersi con molto ordine, con calma, con saggezza, con una buona disposizione in campo e per quel poco che aveva potuto anche provandoci in avanti nel primo tempo. Nel secondo non ce l'aveva più fatta. Credo che la formazione di ieri sia abbastanza figlia di quella, perché aveva pagato non in termini di risultato ma di compattezza, e giocando in casa con altre motivazioni, perché era la sfida dentro e fuori, e con un Chelsea improvvisamente più vulnerabile indietro, è andata in quest'altro modo. Ma insomma, visto che questo genere di difficoltà la Roma ce l'ha dalla prima giornata, mi pare dalla partita col Napoli, dalla prima, e certamente dalla seconda, già persa in trasferta, credo che un po' più di tempestività forse non avrebbe guastato. Da Roma c'è Carmine, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Parte del mio intervento è stato bruciato dalla sua replica al presente ascoltatore, perché anch'io credo che Spalletti sia arrivato con notevole ritardo a questa formula, alla quale doveva pervenire molto prima. E quindi ne approfitto quindi per fare un nuovo intervento e chiederle, ma crede che gli eccessi mediatici di cui si sta caratterizzando Mourinho stiano innervosendo la squadra? E in seconda battuta, non pensa che la difesa di Mourinho sia molto molto peggiore della difesa che esercitava Mancini fino all'anno scorso? Grazie. È difficile dirlo. Eccessi mediatici sì, però d'altra parte dipende sempre da come ti poni. Se uno si presenta in pantofole, felpato, se si muove con circospezione, poi ha un tipo di reazione. Se uno si presenta con gli scarponi chiodati, o parlando soltanto con le maiuscole, poi la reazione è uguale e contraria, no? Ma queste sono vecchie leggi di fisica addirittura, prima ancora che di comunicazione. Sulla difesa, la difesa mi sembrava fosse la fase più rassicurante dell'Inter fino a un paio di partite fa. Adesso non c'è dubbio che due gol incassati a Reggio e tre gol incassati a Cipro siano inquietanti da questo punto di vista. A parer mio molto più i due di Reggio che non quelli di ieri, perché quelli di ieri sono dovuti ad errori individuali, e comunque in una partita in cui sono certo che la concentrazione dell'Inter, vista la facilità del girone, fosse relativa. Mi sembrano più inquietanti quelli di Reggio, partendo da un 2-0 fuori casa, quindi era una partita teoricamente già chiusa. Prima dei vostri interventi, già prenotati per esempio dalla provincia di Verona, da Palermo e da Taranto, mi proietterei sulle sfide di stasera attraverso le voci dei protagonisti. Per esempio il capitano della Juventus, atteso al Bernabeu, Del Piero. Beh, chiaramente mi farebbe piacere segnare qui, questo è uno stadio fantastico, il Real è una squadra fantastica. È altrettanto chiaro che spero di ottenere il risultato, non come le ultime tre volte che sono venuto qua, che purtroppo abbiamo perso. E poi la squadra affronterà, come ha detto anche bene il mister, insomma, con una rinnovata consapevolezza dei propri mezzi, con l'entusiasmo di aver vinto diverse partite negli ultimi giorni, di aver trovato molta convinzione e pur sapendo di affrontare una squadra fortissima e di venire qua con molta, molta umiltà, che è fondamentale per noi. Dubbiamente un buon momento che viene da più di qualche mese, diciamo così, trascino anche dagli anni passati, sono felice, sto lavorando bene con la squadra, con tutte le mie cose, quindi diciamo che, come sempre ho detto, il lavoro paga in tutti i sensi, e questo riuscire a farlo bene, a me ha fatto bene anche il riposo mercoledì, purtroppo, che ho avuto un piccolo fastidio, quindi ero anche più fresco, ma va bene, insomma, non è che ci siano tanti segreti, insomma, si è parlato tanto di me, sono felice, punto a continuare così. Un'altra voce bianconera, quella di Amauri. Ho detto la mia nazionale alla Juve, poi quello che succederà più avanti sarà tutto nuovo. Io penso alla Juve in questo momento, è una Juve che si è ripresa, importante è quello che sto dicendo ormai già da più di una settimana, di non mollare, di andare in campo e fare quello che stiamo facendo fino ad oggi. Si susseguono gli arrivi, leggo dalle agenzie, dei tifosi tedeschi a Firenze, siamo ormai a quota 1500, secondo l'ultimo aggiornamento della questura, ne sono attesi 2000, 2007, sentiamo le vigilie del portiere, di Frey. Le partite importanti, le grandi partite, credo che le abbiamo sempre affrontate bene e non mancano né gli stimoli né il fatto di giocare in uno stadio pieno a casa nostra, voglio dire, come ha detto il mister, anch'io sono altrettanto convinto che faremo una grande prestazione, perché sarà così. Mi auguro comunque che prendiamo spunto della partita dell'andata e comunque la partita non inizierà quando fischierà l'arbitro, deve iniziare prima, almeno sappiamo che dovremo essere concentrato subito dall'inizio, perché comunque la partita dell'andata è dispiaciuto molto, perché comunque abbiamo fatto gioco, abbiamo fatto correre grandi giocatori, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Bayern, quindi in casa loro, quindi credo che in casa nostra sicuramente, dando quel cosino in più, potremo fare una grande, grande prova. Questo era Frey, il prossimo è l'uomo che è mancato oggettivamente molto sia contro l'Inter che contro il Siena, non per colpa di una congiura, perché così sono i regolamenti. Ma insomma, lasciando stare le polemiche arretrate, ascoltiamo la vigilia di Gilardino. Cercare di essere concreti, più concreti possibili, più lucidi possibili, cercare di giocare con più velocità e così potremo metterli in difficoltà. E si è già parlato molto e tanta gente ha sprecato giudizi, già molti giudizi per quanto mi riguarda, e quindi li ho lasciati parlare come ho sempre fatto anche negli anni passati e niente, io penso a giocare, penso a lavorare, penso a far bene, poi credo che i risultati verranno. Questo era Gilardino. Torniamo agli amici ascoltatori segnalando che da questa postazione, da questo termometro, che insomma però in passato spesso funzionava, il malumore complessivo degli interisti sta un tantino salendo. Massimo Maffini scrive una mail bella, bella tostina, altri messaggi che arrivano non sono particolarmente incoraggianti. Un commento di Moratti registrato stamattina, sì, è articolato, non sottovaluti l'avversario volontariamente, ti senti più forte, si vedeva anche in campo, ma poi è più difficile risalire, eccetera, ma la sintesi finale è il pareggio salva anche un po' la faccia, chiuso le virgolette, e mi sembra che anche questo qualcosa voglia pur dire. Massimiliano dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno signor Grazzini, buongiorno a lei. Niente, io volevo farle una domanda di questo tipo riguardante la Roma, che sentivo prima parlava con mister De Canio. Allora, secondo me ieri la Roma ha fatto una grande partita, però questo è il mio modo di vedere, non era il Chelsea che siamo abituati a vedere, perché era una squadra molto lenta quella di ieri sera. Però la mia domanda è questa: Spalletti ha fatto un bellissimo lavoro a Roma e mi levo di cappello perché per me è un grande allenatore, però a mio modo di vedere Prandelli è una spanna sopra Spalletti come allenatore. La Roma l'anno prima aveva fatto un programma con Prandelli, poi è successo quello che è successo. Secondo lei, se la Roma avesse avuto la fortuna di avere Prandelli in panchina, non sarebbe riuscita a vincere lo scudetto in questi anni? Volevo sentire la sua opinione in questo proposito. Grazie, buona giornata. Grazie a lei Massimiliano, ma non la sentirà mai, nel senso che io personalmente stimo Prandelli, stimo Spalletti, credo che queste controprove non esistano e quindi non ho la minima idea. Io posso limitarmi a dire che Spalletti a Roma ha fatto certamente il capolavoro della sua carriera, gli auguro di farne altri in futuro, ma questo è di quelli che rimangono. Il fatto poi di vincere o non vincere, sa, quando si arriva per esempio a 20 minuti in uno scudetto, e se quello scudetto, tornando indietro, si potrebbero anche mettere insieme delle discussioni come sono state messe a suo tempo, io credo che considerando gli organici a disposizione dell'Inter e della Roma, quella sia un'impresa grandiosa. Qualche trofeo arrivato sotto forma di Coppa Italia e di Supercoppa, mi sembra un ciclo eccellente. Puoi dire che un altro avrebbe fatto più o meno di lui, sinceramente non me la sento. Dico che lui col materiale a disposizione ha fatto moltissimo e non credo che sarebbe stato facile far meglio di così. Da Palermo, Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. No, io volevo chiedere qualcosa sulla Juve a proposito di Thiago, perché una cosa strana, nelle ultime due partite è stato un giocatore diverso da quello che abbiamo visto tutto l'anno, che sembrava praticamente un giocatore perso. Cosa è successo secondo lei? Perché questa rinascita? Perché non lo so, chissà se lo sa lui, chissà se lo ha capito Ranieri, chissà se però dato che Thiago non era esattamente uno sconosciuto e non era esattamente un negato, si trattava forse di avere un pochino più di pazienza prima, pazienza che non c'era mai stata, perché quando hai a disposizione tutti nel calcio di oggi, ma non alla Juventus, nel calcio di oggi, se non ti chiami proprio con un nome di quelli altisonanti che riempiono lo stadio magari anche per il marketing, dico Ronaldinho, dico Beckham e potrei dirne altri, se sbagli due partite tu sei fuori, se ne sbagli tre non ne parliamo proprio, ma la terza è difficile che arrivino a lasciartela sbagliare. Perché? Ma perché una volta si giocava in 11 più 5, oggi si gioca in 11 più 14 più 15 circa, no? quando sono pochi. E quindi con l'organico che la Juventus aveva sia l'anno scorso che quest'anno a metà campo, quelle rare volte che Thiago compariva, sbagliava e riusciva, e non aveva mai il tempo di prendere il passo e di trovare. Adesso l'emergenza secondo me gli ha giovato, questa è l'unica spiegazione che provo a darmi, poi ripeto ce ne saranno certamente altre. Da Taranto, Gianni, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Dica. Senta, volevo fare un'osservazione per quanto riguarda Mourinho. Premetto che comunque mi è dispiaciuto molto per Mancini, perché ha fatto un ottimo lavoro, non dimentichiamoci tutti gli anni passati e tutti gli allenatori cambiati, però quello che mi colpisce di più di Mourinho, lo sto rivalutando, perché comunque ha un atteggiamento drammatizza molto su questo fenomeno calcio, che in Italia noi lo vediamo in modo molto drammatico, cioè certe volte il calcio da noi viene visto con questo aspetto di drammaticità che non merita assolutamente, perché ci sono cose molto molto più gravi. Anche la vostra trasmissione apprezzo molto, perché comunque pone il calcio come un aspetto della settimana, ma finisce lì. Quando abbiamo perso col Milan, lui tranquillo, abbiamo perso una partita, fine, è finita lì. Per cui, cioè, anche da questo punto di vista, secondo me, quello che lui sta cercando è, almeno in me ha trasmesso, cioè, se io posso vedere la partita, la vedo, se non la posso vedere vado a fare un'altra cosa, mentre prima c'era forse un po' più accanimento di noi interisti nel seguire la squadra. Sì, lei come vede questo aspetto di Mourinho che mi ha colpito molto? La vedo, Gianni, come una tesi un po' singolare la sua, onestamente, nel senso che mi sembra che Mourinho sia molto bravo a sdrammatizzare quando gli conviene e a caricare leggermente le tinte quando invece gli va in maniera diversa. No, non la seguo molto, fermo restando che mi piacerebbe poi sentire da chi gli dà 9 milioni di euro netti l'anno, o 11 secondo l'autoversione di Mourinho, a cui io personalmente continuo a credere di più, se è contento che tra le doti principali di Mourinho, o forse la sua principale, ci sia quella di sdrammatizzare indipendentemente da come vanno le cose in campo, dai risultati e dal gioco. Vi ho già ricordato che oggi è il primo anniversario triste della scomparsa di un grande del calcio italiano e mondiale come Nils Lidon. Sentiamo che cos'altro Nicola Filippone ha scovato per questa data, per il 5 novembre. Sembra ieri. 5 novembre 1971. Sconfiggendo i Baltimora Bullets per 110-106, i Los Angeles Lakers, trascinati in campo dall'esplosivo talento di Will Chamberlain, iniziano una striscia vincente record di 33 partite. Una serie che sarà interrotta dai Milwaukee Bucks di Kareem Abdul-Jabbar il 9 gennaio del 1972. I Lakers, però, continueranno a vincere fino alla fine della regular season, stabilendo il nuovo primato con 69 successi complessivi, e arriveranno fino in fondo, conquistando il titolo NBA con vittoria in finale sui New York Knicks. Torniamo con i vostri interventi da Bologna. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare di quello che è successo ieri qua a Bologna con la conferenza stampa di Mihajlovic. Sì. Nel senso che secondo me lui si è presentato molto bene, la squadra è messa molto male, e con tutti i problemi che abbiamo qualche giornalista ha tirato fuori ancora la faccenda politica, perché è andato a fare quel necrologio per la morte di Arcan. Mi è sembrato una cosa totalmente fuori luogo, cioè è stato poi particolare un giornalista che ha insistito tantissimo facendo paragoni con Di Cagno, Lucarelli, non c'entrava niente. Cioè, si presenta un tecnico nuovo anziché chiedergli di come giocherà la squadra, di cosa prevede di fare, cioè, mi sembra un'occasione veramente sprecata. Poi si può parlare anche di politica, secondo me, però non alla presentazione di un allenatore di una squadra messa in queste condizioni. Volevo chiedere cosa ne pensava lei, cioè mi è sembrata una cosa veramente fuori luogo. Grazie, buongiorno. Marco, mi spiace, io non sono d'accordo con lei. Certamente sono d'accordo con lei in linea di massima, ma nella fattispecie, se ad un certo punto a Mihajlovic viene chiesto conto di certi suoi comportamenti passati, non nei confronti di un partito o di un normale leader, ma del comandante Arcan, io credo che sia un dovere civile che almeno uno dei giornalisti presenti gli ricordasse questa brillante pagina della sua carriera, fermo restando che ci sarà stato il tempo, sul durante, di chiedergli invece anche come giocherà il Bologna, ma questo poi lo si vedrà anche dopo come giocherà il Bologna. I biglietti da visita invece è meglio calarli subito, quando uno ne ha esibito in passato uno così ingombrante. Bravo Roberto da Roma, che ricorda, che a buona memoria, dice: come cambia il calcio a proposito appunto di titolari che non hanno il tempo di esprimersi. Nei primi due anni Paolino Puric al Torino fece soltanto 6 gol, fosse stato uno di adesso, chissà che carriera avrebbe fatto. Forse non sarebbe mai diventato Paolo Puric, ma quello era davvero un altro calcio, perché Perché poi ci fu anche tutta la storia di Giagnoni, che lo mise a ripetizione, che finiti gli allenamenti lo metteva al muro, nel senso di calciare contro il muro, che è sempre l'avversario più implacabile, e se devi ricolpirla di prima, devi averla colpita bene prima, eccetera eccetera. Così facendo Pulici è diventato Pulici. Oggi non avrebbe più il tempo, non c'è dubbio. Fabrizio da Ancona, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io non è la prima volta che intervento, quindi che faccio gli interventi, quindi so un attimino, ammiro anche le sue risposte molto schiette, quindi in un mondo come questo il più delle volte è un bla bla bla. Sì, può alzare un pochino la voce. Sì, io ecco, premesso che sono della Juventus, quindi non avrei nessun problema a crocifiggere un giocatore come Burdisso, però le volevo ricordare, io seguo il calcio argentino, quindi da tanti anni su Sport Italia, quando adesso, al di là della serata di ieri sera, secondo me Burdisso rimane un grandissimo giocatore, dopo che in una serata ha conglobato 8 errori nella stessa giornata, è una cosa preoccupante, però voglio dire, come marcatori, perché è un attimo che sbagli una partita e viene crocifisso. Questo è lo stesso motivo per cui l'Inter molti giocatori l'ha bruciati, vedi Pirlo e Seedorf che fanno i numeri dall'altra sponda quando invece da loro li consideravano brocchi. La ringrazio e vorrei una risposta. Grazie. Grazie a lei Fabrizio. Beh, non mi pare che Burdisso non abbia avuto delle occasioni nell'Inter, non mi pare che l'Inter sia stata severa con lui quando Burdisso in qualche occasione non si è comportato benissimo da un punto di vista disciplinare. Io non dico che qualche eliminazione ce l'abbia sulla coscienza lui, ma qualche cartellino lì rosso di troppo Burdisso l'ha pur preso, dopodiché finisce lì cioè no, non si tratta di colpevolizzazioni, si tratta di statistiche, si tratta di dati di fatto. Certamente quella di ieri sera ha avuto la fortuna Burdisso comunque e l'Inter, che gli errori di ieri sera sono risultati influenti, perché sarebbero stati influenti anche se l'Inter avesse perso. Insomma, basta vedere come è andata Werder Bremen a Panathinaikos, basta vedere chi c'era in questo girone. Però è anche vero che insomma, a quel livello errori di quella di quella, non dico gravità, ma insomma errori così palesi, qualche traccia la debbano lasciare. C'è un personaggio nuovo che si affaccia alla ribalta della Serie A, o meglio che si riaffaccia. La sua prima avventura in Serie A non era finita benissimo al Parma lo scorso anno. Io resto convinto, l'ho detto più di una volta, che se però su quella panchina del Parma Di Carlo fosse rimasto, il Parma quest'ora giocherebbe ancora in Serie A, anche se nemmeno in questo caso evidentemente sono possibili controprove. Ci riprova, ritenta Di Carlo sulla panchina del Chievo. Il Chievo ha tutte le qualità per venire fuori, perché c'è un gruppo importante, ci sono dei giocatori di qualità importante, e solo adesso bisogna metterla giù lavorando, cercando di fare possibilmente meno errori possibili sotto l'aspetto dell'attenzione e della concentrazione. Quello che conta adesso è ripartire da zero da parte di tutti, e soprattutto con la mentalità di cercare di andare su tutti i campi e fare in modo che la squadra Chievo faccia punti, perché oggi conta questo. Guardare il calendario un po' può spaventare a qualcuno, però tutte le partite sono da giocare, tutte le partite sono 3 punti in palio. Le condizioni di Paolo Bettini: sapete che l'ex campione del mondo ieri è caduto in maniera davvero rovinosa sulla pista della 6 giorni di Milano, in questo revival di una stagione del ciclismo su pista che insomma, sembrava appartenere definitivamente al passato. È caduta bruttissima, lui stesso racconta: l'incidente è stato terribile, ho avuto un vuoto di memoria di alcuni minuti, ma rispetto alle conseguenze che avrei potuto subire la mia condizione attuale è rassicurante. È stato dimesso ieri sera dall'ospedale milanese Sacco, dice di avvertire ancora dolori al collo e alla schiena, ma insomma tutto nella norma, al punto che gli piacerebbe, dice, al momento gli piacerebbe arrivare stasera al velodromo di Ropero e decidere se proseguire la 6 giorni, che prevede una formula in questi casi di una neutralizzazione fino a 36 ore. L'ultimo ascoltatore di oggi è Corrado da Torino, buongiorno. buongiorno a lei. Io volevo intervenire a proposito del tema toccato anche con l'allenatore Di Canio, sulla capacità o incapacità dei difensori attuali del nostro campionato di difendere. Io non sono del tutto d'accordo, secondo me non è soltanto una conseguenza dell'applicazione esagerata di alcuni schemi in la zona di Sacchi eccetera, secondo me non è tanto colpa dei Sarti, ma è a colpa soprattutto del fatto che la stoffa è un po' scadente, cioè un po' per questioni generazionali. Io credo che non ci siano più i difensori Gentile, ma anche solo i Cannavaro di una volta. Faccio un esempio: la mia squadra del cuore, il Torino, io l'ho vista giocare in questo campionato, ho visto alternarsi quattro giganti che sono forse anche bravi di testa, ma che da un punto di vista tecnico lasciano alquanto desiderare. Io credo che un po' sia una questione generazionale, un po' forse che a livello già di settore giovanile si seleziona in qualche modo il difensore più sulla prestanza fisica che non su altre caratteristiche, e quindi credo anch'io che questo sia un pochettino il vero motivo per cui mancano i difensori come una volta. Uno dei motivi, Corrado, la stazza. Anche Rocco a suo tempo sceglieva i difensori ogni tanto in base alla stazza, però non so se uno come Di Loreto, se a uno come Di Loreto con Rocco sarebbe bastato essere grande grosso così, tanto per fare un esempio, visto che lei è tifoso del Torino. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.